Benvenute, benvenuti, grazie per essere qui questa seconda serata di questo festival di letteratura Claridade. È con grande piacere che introduco Edoardo Rialti, critico, scrittore, docente, oratore, tutto ovviamente ai massimi livelli, traduttore no? Quello ancora deve intraprenderlo come prossima carriera. È davvero un piacere comunque averlo, è probabilmente il più grande veterano dei festival di letteratura indipendenti qua di questa città e di nuovo stasera apre le danze di un sabato sera. Annuncio io il titolo di cosa vedremo, è un processo, vedremo il processo a Oscar Wilde, lascio con piacere lo spazio a Edoardo Rialti. Beh, buonasera da parte mia. È un grande piacere essere qui con voi stasera al Claridade, li ringrazio tanto. Poi spero anche domani sera di rivedervi, perché appunto con Dario Valentini e le sorelle Trapasso faremo una serata di racconti e musica. Quindi questa volta abbiamo invertito il menù. Io sono il sorbetto prima della bistecca in questo caso. Quello che stasera voglio raccontarvi è una fiaba. E come tutte le fiabe, comprende dei principi chiamati a un destino splendido e periglioso. In questo caso, contraddiciamo Pinocchio, c'era una volta davvero un re. Come in ogni fiaba, mondi interi devono torcersi nelle doglie del parto perché sbocci un fiore che viene subito calpestato. O perché una stella illumini una stanza senza per questo essere comunque riconosciuta. Come in ogni fiaba, maledizioni e benedizioni si tengono per mano, si confondono, si baciano al limitare della soglia di casa, indecise su chi per prima debba parlare o per ultima. Perché i cuori sono fatti per essere infranti e ognuno uccide la cosa che ama o accetta di farsi uccidere da essa. Il vaso di alabastro si spezza sopra la fronte di Cristo e il profumo invade tutta la stanza. Quindi quello che io voglio raccontarvi stasera è la storia di un sacrificio che arriva fino a noi oggi. Stasera qui, perché io credo che in una certa misura siamo tutti figli di quello che è successo in Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Vi ricordate il verso di Dante alla fine del Paradiso? Nel ventre tuo si riaccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore, il fiore del dolore. Che nasce dalle doglie dell'amore. O, come diceva Ovidio, anzi scusatemi, Orazio, l'ars poetica, si vis me flere, dolendum est primum te ipsi. Se vuoi che io oggi pianga, devi piangere tu prima di me. E quindi quello che io voglio raccontarvi stasera è la storia di alcune lacrime alle quali noi siamo tutti debitori, io credo festival compreso. Come ogni fiaba, anche questa è scandita da delle profezie, da degli oracoli più o meno consapevoli, che si pronunciano senza ancora sapere davvero cosa vorranno dire quando il cielo ci precipiterà sulla testa. La sapienza gocciola in noi durante il sonno, le sentenze si perdono al vento come foglie e anche se le aquile strillano sul nostro capo, noi andiamo avanti. Prima profezia, le mani di un re. Vediamo se riesco anche a tenere sti fogli. Le mani di un re. Ci fu una sera. Vediamo se lo metto qua. meglio. C'è stata una sera, alla fine dell'Ottocento, in cui una serie di aristocratici inglesi sono andati a, a farsi leggere la mano da una cartomante. Questa cartomante, per leggere il loro futuro, non doveva sapere chi erano, quindi c'era un paravento tra la cartomante e gli ospiti di questa serata galante. Uno degli ospiti mette le mani oltre il paravento e la maga guarda queste due mani e dice: queste sono le mani di un re. La mano sinistra garantirà successo, gloria e fortuna a questo re. Ma la mano destra è la mano di un re che finirà in esilio. L'uomo dall'altra parte del paravento chiede quando, e la cartomante dice presto, prima dei 40 anni, e l'uomo chiede per quanto, e la cartomante dice per 2 anni. L'uomo abbandona la festa. Quest'uomo si chiamava Oscar Wilde. Anzi, per essere esatti, Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde. Il nome irlandese, Fingal, è il nome di uno dei grandi eroi dei clan celtici, che arriverà fino al Finnegan's Wake, il titolo del libro di James Joyce, no? Il risveglio di Finnegan, che secondo la tradizione celtica era un bambino prodigio che aveva rubato il salmone della conoscenza e per questo aveva un dono, quello di succhiarsi il pollice, e attraverso questo pollice che succhiava era in grado di pronunciare delle profezie. Io non sappiamo se Wilde si stesse succhiando il pollice quando, ancora bambino, alle elementari, parlando con i suoi compagni di classe, dice: io un giorno sarò il protagonista di un grande processo. Perché lo diceva? Perché Wilde veniva da una famiglia di attivisti irlandesi, suo padre combatteva per l'indipendenza irlandese, sua madre, Lady Wilde, grande autrice di fiabe, che si era data un nome italiano perché era una sostenitrice di Mazzini, si faceva chiamare Lady Speranza Wilde, ospitava continuamente a casa patrioti irlandesi che combattevano contro il governo inglese, e quindi essere processati nella famiglia Wilde era una cosa molto importante, una cosa prestigiosa. L'Irlanda, dobbiamo capirlo, era l'unica colonia europea in Europa. Gli irlandesi venivano chiamati domestic aliens, gli alieni domestici. Erano controllati e repressi dal governo britannico, con un controllo che si esercitava su tutto: il linguaggio, il gaelico era proibito, le danze. Avete presente le danze irlandesi, no? Sapete, gli irlandesi ballano così, no? Senza le mani. Sapete perché lo facevano? Perché era proibito ballare, e quindi quando loro avevano i funerali, tenevano le mani dietro e battevano semplicemente i piedi. Quindi Oscar cresce in una famiglia del genere ed è uno degli irlandesi che decide, come faranno tanti grandi scrittori irlandesi di quel periodo, Bernard Shaw, Yeats, James Joyce, di conquistare il conquistatore con le armi della conquista, l'inglese. Oscar si rivela subito un bambino e un ragazzo prodigio per le lingue e per la letteratura, e quindi dall'Irlanda va a studiare nel cuore dell'Inghilterra, a Oxford, dove si formava la classe dirigente inglese. E lì lui si forma e si rivela immediatamente l'alunno geniale e brillante che poi appunto diventerà lo scrittore che tutti conosciamo, con una conoscenza prodigiosa del latino e del greco, che poi riecheggerà in tutta la sua scrittura. Wilde è pieno di parole latine, pensate all'importanza di chiamarsi Ernesto. Spero, Cecilia, di non offendervi se dico con franchezza che voi mi sembrate la personificazione dell'assoluta perfezione, the personification of absolute perfection, due parole latine. E Wilde non soltanto si dimostra da subito l'alunno e lo studioso prodigio che avrebbe potuto avere una carriera accademica straordinaria, si forma con i due più grandi esteti della fine dell'Ottocento, Walter Pater, il grande esteta che gli trasmette il mandato di ardere sempre come una fiamma gemmea e non risparmiarsi nessuna esperienza. O John Ruskin, l'altro grande esteta per il quale l'estetismo era una attività di rivoluzione sociale che comprendeva tutte le classi dell'Inghilterra dell'epoca, ma Wilde, dopo questo ingresso glorioso come studioso, lascia tutto e va a Londra, si muove da Oxford, dalla conquista di Oxford, alla conquista della capitale. E come lo fa all'inizio? Non scrive niente di importante, non scrive niente di significativo, diventa famoso, celebre, cercato, solo per come si veste e per come parla. In questo mondo grigio, che era l'Inghilterra vittoriana, dove, come diceva Stefan Zweig, tutti dovevano diventare vecchi presto, si coprivano con i baffi, si incanutivano, si vestivano di grigio e di nero, compare una farfalla vestita di viola, di rosa, che porta un garofano all'occhiello, se non addirittura un girasole, e che ha un eloquio imperdibile, indimenticabile, talmente tanto che iniziano a Wilde, non ho ancora scritto niente, fa solo delle conferenze sul valore dell'estetismo, il grande movimento estetico alla fine dell'Ottocento, e muove guerra alla società vittoriana semplicemente con quello che lui dice, non pubblica nulla. Iniziano addirittura a fare delle parodie di Wilde, iniziano a essere fatti degli spettacoli e Wilde cavalca la tigre della parodia. In America parte uno spettacolo dove, che gli fa il verso e lui lo segue con un treno foderato di verde e lui insegue la sua stessa parodia, la sfida sul suo stesso terreno. Noi oggi pensiamo all'estetismo come a una graziosa cornice, un lusso per pochi, ma quello che dobbiamo capire è che per Wilde l'estetismo era una rivoluzione. Era il sogno di un mondo rinnovato, alla portata di tutti. Sentite che cosa dice nel ritratto di Dorian Gray quando lui tratteggia qual è l'essenza, che cosa si cerca con la bellezza. Il sottile velame crepuscolare si leva, un velo dopo l'altro. Le cose recuperano gradualmente forma e colore e noi vediamo l'alba rimodellare il mondo nelle sue forme secolari. Nulla ci appare mutato. La vita che conosciamo ritorna dalle ombre irreali della notte e dobbiamo riprenderla al punto dove l'avevamo lasciata. Si insinua in noi allora un senso terribile della necessità di continuare a spendere la nostra energia nella identica serie monotona di abitudini stereotipate, la catena di montaggio delle azioni e del pensiero, e magari un desiderio violento che le nostre palpebre possano aprirsi una mattina su un mondo che nell'oscurità sia stato rimodellato per la nostra gioia. E continua. Ciò che dispiace è che la società, queste sono le sue conferenze in America, sia costituita in modo tale che l'uomo sia intrappolato in una routine che non gli consente di sviluppare liberamente quanto ha in sé di meraviglioso, affascinante, squisito, e che in realtà gli faccia perdere il piacere e la gioia di vivere. La mia teoria sostiene che non si può insegnare a nessuno cosa sia davvero bello. Non esiste un metodo che possa insegnare l'autentico spirito di un dipinto o di una poesia. Si deve rivelare gradualmente. Uno studente, per esempio, può arrivare a comprendere una verità scientifica grazie a un insegnante competente, ma l'unico modo per arrivare a comprendere la bellezza è circondarsi di cose belle. E poi, a proposito delle case di tutti, anche dei poveri, noi vogliamo che le case della gente siano belle. E quando così sarà, le persone non parleranno più del bello. Adesso siamo obbligati a farlo, perché ci sono troppe cose brutte nel mondo. Nello stato ideale dell'arte non ci saranno conferenzieri dell'arte. E tutto questo non lo ha dichiarato solo nei teatri affollati d'America o di Londra, è andato nelle miniere del Colorado, si è fatto calare nelle miniere per parlare con i minatori, è andato a parlare con dei minatori analfabeti e gli ha parlato di Benvenuto Cellini, del nostro Benvenuto Cellini di Firenze, tanto che un minatore gli disse: ma perché non l'ha portato con sé questo Benvenuto Cellini? E Wilde disse: temo sia morto. E loro gli dissero: e chi gli ha sparato a questo Benvenuto Cellini? Bene, seconda profezia: ci si commuove per il destino degli altri senza sapere che in fondo si sta guardando in uno specchio e stiamo guardando noi stessi. Wilde, mentre gira per l'America, nota in una lettera: in una cella di un carcere americano trovai una traduzione di Dante e uno Shelley. Strano e bello mi parve che il dolore di un singolo fiorentino in esilio dovesse centinaia di anni dopo alleviare la pena di un prigioniero comune in un carcere moderno. E quindi inizia la sua guerra, la sua rivoluzione. Dice: io so di avere ragione e di avere una missione da compiere. Attraversa l'oceano, arriva alla dogana in America e gli fanno: ha qualcosa da dichiarare? E lui: non ho nulla da dichiarare eccetto il mio genio. E torna a Londra e inizia la sua prodigiosa attività di scrittore, le fiabe, le più belle fiabe dell'Ottocento, il ritratto di Dorian Gray, le sue opere teatrali, le sue conferenze. Lui inventa il critico contemporaneo, il critico come artista, nel quale lui dice: il critico è un artista due volte, perché l'artista fa arte sulla natura, il critico deve fare arte sull'arte. Ma, e in questo lui viene amato, vezzeggiato, cercato dalla folla, dagli aristocratici, dalla società londinese, che nonostante sia un irlandese e sia un uomo molto strano, inizialmente lo vuole, lo cerca, è innamorata del suo eloquio, ma Wilde non si fa troppe illusioni e dice: ci sono tre tipi di despoti. C'è il despota che tiranneggia il corpo, c'è il despota che tiranneggia l'anima, c'è il despota che tiranneggia anima e corpo. Il primo si chiama principe, il secondo si chiama papa, il terzo si chiama popolo. Trionfo inglese ed europeo, a Londra come a Parigi. Wilde viene cercato anche dalla grande società parigina. Lui è quello che porta Flaubert in Inghilterra, è il primo a parlare di Dostoevsky in Inghilterra, viene cercato dai salotti parigini da André Gide, che dice: quando sono accanto a Wilde sento che esisto poco. E aggiunge: ci sono alcuni grandi uomini che ti fanno sentire basso e ci sono dei grandi uomini che ti innalzano, perché ti trasportano nella loro regione, ti fanno sentire che tutto è possibile. E mentre succede tutto questo, nel cuore del Trionfo lui realizza alcune delle opere teatrali, le uniche opere teatrali inglesi che vengono ancora realizzate oggi. Lui, il mentaglio di Lady Winterman, l'importanza di chiamarsi Ernesto, che fonda il teatro dell'assurdo. Senza Wilde non avremmo avuto Beckett o Ionesco. Ma in tutto questo gli dèi sono crudeli, la vita, l'aveva detto lui, imita l'arte, e Wilde incontra il suo Dorian Gray. Lui aveva già avuto tantissimi amanti, ma alcuni lo accompagneranno tutta la vita, ma incontra il suo Dorian Gray, Lord Alfred Douglas, dei Black Douglas di Scozia, i Douglas neri di Scozia, una famiglia aristocratica che risaliva ai tempi di Macbeth di Shakespeare, nota per la sua rabbia, per gli accessi di follia, per la violenza e la quantità dei suicidi. Il padre di Lord Alfred Douglas è quello che ha inventato le regole contemporanee della box, girava con una frusta e un bastone. Il figlio maggiore di Lord Alfred Douglas, omosessuale, si suicida. Il secondogenito, del marchese di Queensbury, del padre, il secondogenito, Bosie, è velenosamente bello. di una bellezza struggente. Tutto quello che Wilde ha cercato, è un aristocratico inglese, lui ha questo rapporto di dialettica, di attrazione e repulsione per il mondo britannico, è bellissimo, lo adora ed è completamente privo di qualunque freno, è in guerra costante con il padre, contro il quale vuole combattere. Questo, il marchese di Queensbury, era un ateo progressista che combatteva contro la Chiesa d'Inghilterra, ma al tempo stesso aveva tutti i pregiudizi puritani dei vittoriani, e Wilde viene travolto dall'amore e dalla passione per Lord Alfred Douglas, e Lord Alfred Douglas sfida il padre, usa Wilde, il piedistallo di Wilde, la sua visibilità, come un'arma. Vuole cenare con Wilde sempre al centro dei ristoranti perché tutti lo vedano, gli fa pagare tutto, gli fa pagare i suoi marchettari, gli fa pagare le sue vacanze, gli impedisce di scrivere. Non solo, ma sfida costantemente il suo padre. Il marchese di Queensbury si presenta a casa di Wilde e minaccia di picchiarlo. Wilde risponde: non so quali siano le regole della box, ma le regole di Oscar Wilde sono quelle di sparare a vista. Tra l'altro Wilde era un uomone ed era un uomo di una bontà enorme, ma era fortissimo, era enorme. C'è un episodio, una volta degli studenti di una squadra di rugby a Dublino si erano dati appuntamento per rompere tutte le porcellane di Wilde. Wilde diceva, era la sua espressione famosa, cerco di vivere all'altezza delle mie porcellane. Loro entrano in casa per rompergli tutte le porcellane, Wilde è in cima alle scale, questi ragazzoni che giocano a rugby corrono lungo le scale, Wilde prende il primo, lo scaraventa giù e li fa rotolare giù tutti come birilli, si mette le mani sui fianchi e fa: allora signori, se vi comporterete bene da bravi bambini, io adesso vi servo il tè e vi racconterò delle storie. E questi quatti quatti con la testa bassa entrano in salotto e Wilde inizierà a improvvisare delle fiabe per loro. Ebbene, però il marchese di Queensbury, nonostante Wilde non abbia paura, preme, cerca di lanciare degli ortaggi durante uno spettacolo, l'importanza di chiamarsi Ernesto, viene rifiutato all'ingresso, allora lui va al Savoy, il più grande hotel di Londra, prende un biglietto, lo mette in una busta aperta, che è come un guanto di sfida, perché capite, chiunque può aprirla, non è sigillata, la può aprire il portiere, e ci scrive a Oscar Wilde che posa da sodomita. Era talmente illetterato che non riesce neanche a scriverlo giusto. Non scrive sodomita, scrive somdomita. E questa è diffamazione. Bosi trova l'occasione per portare suo padre in tribunale. Tutti gli amici di Oscar Wilde gli dicono non lo fare, non lo fare, perché questa cosa ti rovina, ti distrugge. Scappa in Francia. In Francia c'era il codice napoleonico, l'omosessualità non era più perseguibile per legge. Molti erano scappati in Francia, ci fu un altro caso all'epoca di un altro nobile che scappò in Francia e poco dopo il figlio della regina Vittoria, Re Giorgio, disse: pensavo che i gentiluomini si sparassero quando venivano fuori queste cose. Tutti gli amici gli dicono scappa, ma Wilde non scappa per due motivi. Bosi, che lo carica come una pistola minacciando di uccidersi, e la madre di Oscar Wilde, Lady Wilde, che dice: se te vai via io non ti parlerò mai più, perché un irlandese non scappa dagli inglesi. E allora Wilde accetta di portare il marchese di Queensbury in tribunale con l'accusa di diffamazione. Ovviamente la causa gli viene immediatamente rivoltata contro come una spada alla gola, e il processo si ribalta e diventa un processo in due fasi per sodomia, per la quale all'epoca la pena massima erano 2 anni di lavori forzati. L'avvocato di Oscar Wilde gli dice: guardi, un uomo della nostra condizione non è in grado di sopravvivere a 8 mesi di lavori forzati, lei scappi. Ma Wilde dice: io non scappo. E quello che io adesso voglio fare con voi è leggervi il processo, quello che è esattamente successo in quei giorni in Inghilterra. Il processo per eccellenza, dove questo Apollo o Dioniso diventa un Marsia scuoiato, un Cristo dinanzi ai farisei, questo mondo ipocrita di una violenza, di una capacità di crudeltà nei confronti delle donne e dei bambini, no? Lo sapete, il vizio inglese, le vis anglais come lo chiamavano, no? Il gusto di flagellare i bambini a scuola. Vale la pena anche in questo caso di riprendere le parole di Cristo sui farisei: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati, essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putrefazione. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di impurità. I suoi giudici e accusatori investono tutto. Con ferocia ipocrita il dandy, l'irlandese, lo scrittore, il frocio, viene ripercorsa la sua vita in tutto, dalle macchie di lenzuola degli alberghi dove lui andava a dormire alle sue opere. E sentite come le sue opere vengono portate alla sbarra. Procuratore Carson: lei è convinto che queste sue frasi, di queste sue frasi e filosofie pubblicate nelle prime pagine dei giornali? Wilde: sì. Non le sembra che possano favorire una certa immoralità fra i giovani? Le mie opere, al di fuori della sfera artistica, non tendono a produrre alcun effetto. Quindi si potrebbe dire che lei non si preoccupa di alimentare la moralità o l'immoralità? Non credo che un libro né una qualsiasi opera d'arte possano avere effetti sulla moralità. Sono nel giusto quindi se affermo che lei non si preoccupa degli effetti morali o immorali che un'opera può produrre. Certamente, non me ne preoccupo. Per quanto riguarda le sue opere, quindi il suo atteggiamento è quello di non preoccuparsi della loro moralità o immoralità? Non capisco se lei usa il termine atteggiamento in un'accezione particolare. Non è questo uno dei suoi termini preferiti? Atteggiamento, che si atteggia a sodomita. Le pare? Non ho un particolare atteggiamento su questo argomento. Quando scrivo una commedia o un libro, mi preoccupo esclusivamente di letteratura, cioè di arte. Non mi propongo di fare del bene o del male, ma di tentare di creare qualcosa che abbia una qualche bellezza. La qualcosa si raggiunge attraverso gli strumenti del bello, dello spirito e dell'emozione. Mi ascolti, signore, ecco una delle sue frasi: la malvagità è un mito inventato dai buoni per sottrarsi alla curiosità, alla curiosa attrazione esercitata dagli altri. Crede che sia vero? Raramente ritengo che quello che io scrivo sia vero. Ha detto raramente? Ho detto raramente. Avrei potuto dire mai. Non solo. Cito dalla sua introduzione a Dorian Gray: non esistono libri morali o immorali, i libri sono scritti bene o scritti male. Sì, questo esprime il suo punto di vista? Il mio punto di vista sull'arte? Certo. Se ne deduce che quando un libro è scritto bene, per quanto immorale possa essere, secondo lei è un buon libro? Sì, se è scritto così bene da suscitare un senso di bellezza, che è il sentimento più alto che un essere umano possa provare. Se invece fosse scritto male, farebbe ribrezzo, provocherebbe disgusto. Quindi un libro scritto bene, ma che sostenga principi morali perversi, potrebbe essere un buon libro? Nessuna opera d'arte sostiene mai dei principi. Come? I principi attengono a chi non è un artista. In un'opera d'arte non esistono i principi. Ma il punto fondamentale è il momento nel quale i giudici gli chiedono di spiegare una poesia. Non è una poesia sua. Lord Alfred Douglas, mediocre poeta, ha scritto una poesia che parla di due amori. Un amore che è l'amore che sboccia fra fanciullo e fanciulla di reciproca fiamma, e un altro amore che non osa dire il suo nome. E allora gli chiedono a Wilde di spiegare che cos'è questo amore che non osa dire il suo nome. E Wilde dice: l'amore che non osa dire il suo nome in questo secolo è quel particolare genere di affetto che un uomo maturo prova per un uomo più giovane e che è capitato a Davide e Giona, o che Platone ha posto alla base di tutta la sua filosofia e che si trova nei sonetti di Michelangelo e in quelli di Shakespeare. È quel profondo sentimento dello spirito che è così puro da tendere alla perfezione. Esso ispira e pervade le grandi opere d'arte e, nel loro piccolo, anche le mie lettere. È bello, è raffinato, è la più alta forma di affetto. In questo tempo il mondo lo fraintende e proprio per questo viene chiamato l'amore che non osa dire il suo nome. E per questo motivo io oggi mi trovo qui. Non ha niente di innaturale, è intellettuale e sovente accade tra un uomo maturo e un uomo più giovane, quando l'uomo maturo ha intelletto e il giovane ha tutta la gioia, tutta la speranza e tutta il fascino della vita davanti a sé. Che questo sia così, il mondo non lo accetta, il mondo lo dileggia e talvolta porta qualcuno al patibolo per questo. Ma nonostante tutto questo, che fu accolto da anche da grandi applausi, la condanna è certa. Il giudice dice: questo è il caso più grave che io abbia mai giudicato in tutta la mia vita. 2 giorni prima aveva avuto un caso di infanticidio, una madre che aveva strangolato il figlio nella culla, e dice a Oscar Wilde: la vostra condotta è così grave che la sentenza che io devo emettere non è minimamente adeguata a quello che voi avete commesso, quindi io chiedo il massimo della pena. E Wilde viene portato fuori dal tribunale tra le urla, i dileggi e gli sputi, come scriverà poi James Joyce. I redattori dei giornali furono ammessi all'ispettorato e attraverso la finestrina della sua cella, in un urlo di gioia puritana, poterono pascersi dello spettacolo della sua vergogna. Strisce bianche coprirono il suo nome sugli albi teatrali. I suoi amici lo abbandonarono, i suoi manoscritti furono rubati, mentre egli in prigione scontava la pena inflittagli di 2 anni. Sua madre morì sotto un nome di infamia, sua moglie morì, fu dichiarato in stato di fallimento, i suoi effetti furono venduti all'asta, i suoi figli gli furono tolti, fu cacciato come una lepre dai cani. Eppure, tra gli insulti e tra gli sputi, mentre veniva portato via, Robbie Ross, il primo grande amore della sua vita, quello che poi sarà il suo esecutore testamentario, mentre tutti urlano, si toglie il cappello. Come diceva Relliar, su sacrifici simili gli dèi stessi gettano incenso. E quindi si apre il carcere per Oscar Wilde. La profezia si avvera: Wilde non morirà in carcere, ma morirà per quello che gli succede in carcere. Inciampa, si fa male a un orecchio, sviluppa una forma di infezione che poi degenera in una meningite che 2 anni dopo non guarirà mai più e che lo porterà poi alla morte. Lord Alfred Douglas non lo va a trovare in carcere neanche una volta. Wilde aveva scritto in una delle sue commedie una cosa che lui stesso contraddirà. Lui dice: solo gli esseri imperfetti hanno bisogno di amore, ed è quando siamo feriti dalle nostre stesse mani o da quelle degli altri che l'amore dovrebbe soccorrerci, altrimenti a che serve? L'amore dovrebbe perdonare tutti i peccati, tranne quelli commessi contro di lui, ma Wilde perdona anche i peccati commessi contro di lui, contro l'amore, e dal carcere scrive a Lord Alfred Douglas la più bella lettera che un essere umano abbia scritto dai tempi dell'apostolo Paolo, ed è il De Profundis, dagli abissi, ed è una enorme, lunga lettera nella quale Wilde ripercorre tutto. E sentite che cosa dice a Lord Alfred Douglas: ma con l'amore non si fa commercio al mercato, né si usano i pesi di un venditore ambulante. La sua gioia, come la gioia dell'intelletto, è di sentirsi vivi. Lo scopo dell'amore è amare, né più né meno. Tu fosti il mio nemico, un nemico come nessun uomo ebbe mai. Ti avevo dato la mia vita e tu l'hai gettata via per gratificare le più basse e spregevoli fra tutte le umane passioni: odio, vanità e cupidigia. In meno di 3 anni mi avevi rovinato. Per il mio stesso bene non c'era niente da fare per me eccetto amarti. Sapevo che se mi fossi lasciato andare ad odiarti nell'arido deserto dell'esistenza che dovevo attraversare e in mezzo al quale ancora mi trovo, ogni roccia avrebbe smarrito la sua ombra, ogni palma si sarebbe seccata, ogni fonte d'acqua si sarebbe liberata avvelenata alla sorgente. Cominci un po' a capire adesso. E poi gli parla dei criminali comuni. Un giorno lui inciampa e un criminale comune lo tiene e gli fa: per quelli come lei è più dura qui che per quelli come noi. E dice: i poveri sono più saggi, più compassionevoli, più sensibili di noi. Ai loro occhi la prigione rappresenta una tragedia nella vita di un uomo, una disgrazia, un incidente, qualcosa che richiede la comprensione altrui. Parlano di una persona che sta in prigione come di uno che si trova semplicemente nei guai. È la frase che usano sempre, è l'espressione che racchiude la perfetta saggezza dell'amore. Per persone della nostra condizione sociale è diverso. Per noi la prigione rende un uomo un paria. Io e quelli come me abbiamo a malapena diritto all'aria e al sole. La nostra presenza guasta il piacere altrui. Ed ecco la scoperta del dolore come luogo in cui far sbocciare l'amore e quindi l'arte. Dietro la gioia e il riso può esserci un'indole rozza, dura e insensibile, ma dietro il dolore c'è sempre il dolore. La sofferenza, diversamente dal piacere, non porta maschera. La verità nell'arte non esprime alcuna corrispondenza tra l'idea essenziale e l'esistenza accidentale. Non è la somiglianza della forma all'ombra o della forma riflessa nel cristallo, non è l'eco che viene da una collina cava nella fonte di acqua e argente. La verità nell'arte è l'unità di una cosa con se stessa. È l'esteriore fatto in espressione dell'interiore, l'anima incarnata, il corpo permeato dallo spirito. Per questo non esiste verità paragonabile al dolore. Le altre cose possono essere illusioni dell'occhio o della bramosia, fatte per accecare l'uno o nauseare l'altra, ma dal dolore sono stati creati i mondi. E alla nascita di un bambino o di una stella c'è stato il dolore. Che cosa ti aiuta dentro tutto questo? Cosa aiuta un uomo così? La morale? La religione? No. L'etica non mi aiuta. Sono una contraddizione nata. Sono uno di quelli che sono fatti per le eccezioni, non le regole. Ma pur vedendo che non c'è nulla di sbagliato in quello che si fa, mi rendo conto che c'è qualcosa di sbagliato in ciò che si diventa. Ed è bene averlo capito. La religione non mi aiuta. la fede che gli altri ripongono in ciò che non si vede, io l'ho dedicata a quello che si può guardare e toccare. I miei dei dimorano in templi fatti con le mani e il mio credo è reso perfetto e completo entro il cerchio dell'esperienza. Ogni cosa, però, per diventare reale, dovrebbe diventare una religione. E l'agnosticismo e l'ateismo dovrebbe avere i suoi riti, non diversamente dalla fede. Ha seminato i suoi martiri e dovrebbe raccogliere i suoi santi a lodare Dio ogni giorno per essersi nascosto dall'uomo. Ma che si tratti di fede o ateismo, non deve essere nulla di esterno a me. I suoi simboli devono essere di mia creazione. Solo ciò che è spirituale crea la propria forma. Se non riesco a trovare il suo segreto dentro di me, non lo troverò mai. Se non l'ho ancora trovato, non verrà mai a me. E qual è il segreto che Wilde trova? È questo, che aspettarlo in carcere era la sua anima. Quando venni messo in prigione per la prima volta, alcune persone mi suggerirono di provare a dimenticare chi fossi. Fu un consiglio disastroso. Soltanto ora, comprendendo chi sono, ho trovato un certo sollievo. Ciò che ora gli altri mi suggeriscono è tentare, al momento del mio rilascio, di dimenticare del tutto di essere stato in prigione. So che sarebbe ugualmente fatale. Equivarrebbe a essere per sempre perseguitato da un senso intollerabile di vergogna e che quelle cose che hanno significato tanto per me quanto per qualunque altro, la bellezza del sole e della luna, l'avvicendarsi delle stagioni, la musica dell'alba o il silenzio di notti immense, la pioggia che cade tra le foglie o la rugiada che si nasconde tra l'erba e la fa d'argento, sarebbero tutte marcite e perderebbero il loro potere salvifico e la loro capacità di comunicare la gioia. La stessa frase del ritratto di Dorian Gray, un mondo rinnovato per la nostra gioia. Respingere le proprie esperienze equivale ad arrestare il proprio sviluppo. Rifiutare le proprie esperienze significa porre una bugia sulle labbra della propria vita. Non è meno che rinnegare l'anima. E poi, il punto che almeno a me personalmente commuove sempre di più. Naturalmente so che da un certo punto di vista le cose mi verranno rese più difficili che ad altri, ma per la natura stessa del mio caso deve essere proprio così. I poveri, i ladri e i reietti che sono imprigionati qui assieme a me sono per molti versi più fortunati di quanto non lo sia io. La strada nella città grigia o nel campo verde che vide il loro peccato è piccola. Per trovare persone che non sappiano nulla di ciò che si hanno fatto non c'è bisogno di arrivare più lontano di quanto un uccellino possa coprire in volo tra la luce indistinta prima dell'alba e l'alba stessa. Ma per me il mondo si è ridotto a una spanna e ovunque io mi volga il mio nome è scritto col piombo sulle rocce. Io sono infatti giunto alla momentanea notorietà del crimine, non dall'oscurità. Sono bensì passato da una sorta di eternità della fama a una sorta di eternità dell'infamia e a volte mi sembra di aver dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che tra la fama e l'infamia non c'è che un passo, seppur c'è. Tuttavia, nel fatto stesso che la gente mi riconoscerà, dovunque andrò e soprattutto della mia vita e delle sue pazzie, posso scorgere qualcosa di buono per me. Mi imporrà la necessità di affermarmi di nuovo come artista, non appena mi sarà possibile, se riuscirò a creare anche solo una bellissima opera d'arte, riuscirò a sottrarre al rancore il suo veleno, alla codardia il suo sarcasmo e a sradicare fino alle radici la lingua del disprezzo. E se per me la vita fosse, come sicuramente sarà, un problema, Io sono parimenti un problema per la vita. La gente dovrà adottare un atteggiamento nei miei confronti e di conseguenza dare un giudizio su se stessa e su di me. Non occorre che dica che non sto parlando di individui particolari. Le uniche persone con cui mi interesserebbe stare adesso sono gli artisti e le persone che hanno sofferto, quelli che sanno che cos'è la bellezza e quelli che sanno che cos'è il dolore. Anche questa profezia si sarebbe avverata. Wilde morirà a Parigi, in esilio, con uno pseudonimo, circondato da marchettari, scrittori, pochi amici fedeli, bambini, prostitute. Con il viso del dipinto di Toulouse-Lautrec, lui è diventato il ritratto di Dorian Gray. Il giovane re, il principe felice che si è spogliato lamina a lamina, dopo aver cercato di vivere ancora una volta con Bosi, e in una lettera agli amici esterrefatti che gli dicono: ma perché sei tornato da Bosi? E lui dice: mi ha rovinato la vita, certo che devo amarlo. E torna da lui per l'ultima volta, con l'ultima incomprensione e l'ultimo abbandono. L'usignolo canta fino a farsi spezzare il cuore. Questo è il sigillo ultimo della regalità delle mani del re. Questa è anche la possibilità che aspetta ciascuno di noi nell'esilio che è dato per certo, nel paese straniero che ognuno di noi è a se stessi, scoprire la natura profonda del problema, ribaltare la razzo, puntare la spada alla gola di chi ce la punta contro e spingersi contro di essa, farsi largo fino a trovarsi a un millimetro dalla bocca del nemico e baciarlo. Meno male, pensiamo spesso che gli altri non sanno tutto di noi, invece noi siamo sempre in nostra compagnia. Del film conosciamo tutte le prove, gli abbozzi scartati, le sequenze che non funzionano nelle ricostruzioni successive, rannicchiati sotto al sole segreto della nostra coscienza che ci illumina come fossimo fatti d'aria. L'unica patria che non può esserci strappata e che ci aspetta come un estraneo troppo poco noto, eppure noto, siamo noi stessi, agli estremi confini della notte. Siamo noi che siamo davanti alla vita e al mondo, e scoprire finalmente che tutto ciò a cui noi teniamo è ancor più bello e vero quando è spezzato, inerme, vulnerabile. Insomma, occorre tutta la vita per amare noi stessi ciò che da sempre chiediamo agli altri di amare in noi. Che poi qualcun altro accolga il bambino che teniamo in braccio è un'altra storia. Intanto noi possiamo spezzarci, come appunto il vaso di profumi spezzato dalla prostituta sulla testa di Cristo perché riempia del profumo tutta la stanza. Questo è quello che ha fatto Wilde. Wilde ha deciso di farsi uccidere, di sacrificarsi, cioè di rendersi sacro. E in questo modo ha reso sacri i nostri amori, il nostro essere un problema per la vita. So di avere ragione e di avere una missione. La missione non è una morale, non è una conoscenza, non è una verità, è una passione. Passione. Un fuoco che vivifica ogni angolo della terra, e le vittorie e le sconfitte qua non contano più. Tempo e spazio non contano più. Noi stasera qui siamo la vittoria frutto di quella sconfitta. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Come lui diceva, noi siamo tutti figli degli amori che prima di noi si sono spezzati. Come lui dice alla fine di una sua fiaba, l'amore è migliore della saggezza, è più prezioso della ricchezza, è più bello dei piedi delle figlie dell'uomo. Non possono distruggerlo i fuochi, né spengerlo le acque. Ti ho chiamata all'alba e non sei venuta al mio richiamo. la luna udiva il tuo nome, eppure tu non mi davi risposta, perché perfidamente ti avevo lasciata e a mio danno ero andato vagando lontano. Eppure sempre il tuo amore è resistito in me, è sempre stato forte e nulla l'ha mai potuto abbattere, sia che io mi volgessi al male, sia che io mi volgessi al bene. E ora che sei morta, voglio morire anche io qui con te. Grazie.